c'è una scangiavia e ho messo anche da questa parte. Niente, che mi sto guardando qualcosa da PC anche. No, ma sono assolutamente no. Passaggio. No. Via Santiago. No, non è molto bassa. Mi arrivi a sotto, c'ho sul 5. Va bene. La sicurezza stava facendo carica, Penso perché io quando ho attaccato, ho acceso qua a casa, non c'era già più nessuno, quindi sicuramente nel momento che ho fatto dalla macchina a casa è andato a farsi una carica. Vedi perché c'è mia figlia, mi stava parlando. Li punti. Tu da dove stai mondurando? Sei quello di poco fa che stavi parlando con Claudio. Ma già ti sento tranquillo. Alla fine di via Valletta, ma alla fine sulla destra di Fratello Ricola. Ah, su a Montefurro, sì, ho capito. Hai compreso. E io ci salgo domani mattina a Montefurro. Don Ciro, mi stai fermando? Svoltare il vino e l'umido. Soltanto io faccio al centro il piccolino, facciamo lo svuotamento dei bidoni dell'umido e faccio un giorno il monte e un giorno latte dolce. E ci sentiamo dopo che mi ha chiamato la mia moglie che è quasi pronto, così almeno mi faccio una carichetta e ci sentiamo dopo. Quello che c'ho io che stavo parlando con Luca. colui. A 100 watt colui assorbe 13-14 ampere. Oh, va bene, 45 ampere sia la grande. Sì. E infatti mi prendo questo e questo qui lo metto da parte e comunque lo conservo, no? Lo butto, può sempre servire. Ah, un lavoro piccolino così va sempre bene. Va bene, devi fare un lavoretto, una cosa e va bene. Ascolta, ma quella affare l'area di Luca, ce l'ha il microfono così da tavolo o no? Certo che ce l'ha, è il mio però, MC60 e c'è Luca. E perché se lo stavo guardando eventualmente me lo prendo anch'io. Ma guarda, quello piccolo, quello mi manda. Eia. No, non ce l'ha quello di microfono da tavolo. Io l'ho messo perché questo è un quadribanda, questo c'è anche gli HF, capito? Quello piccolo mi dice tu, mi stavo parlando con Luca, quello è un quadribanda, non un bibanda. Quello fa 0,30, poi c'è 50 metri, quindi va da 0, va 30 kHz a 50 MHz, tutto in continuo. Puoi guardare così quello. E poi c'è le V e le UHF, anche un quadribanda quello lì. No, non quello tuo, non hai capito, no, quello di Luca, lo devo prendere io. Ci può mettere quel microfono che stai comprando tu? Certo ci può mettere, certo ci può mettere, ci vuole l'attattore. L'attattore perché quello lì c'ha l'attacco a spinetta, anche questo c'ha l'attacco a spinetta, ci vuole l'attattore. Dell'Icon attacco a spinetta con l'attacco N. E quello ti volevo dire che c'è il microfono normale suo originale, c'ha no? Esatto, c'ha il microfono, senti che ti ho fatto vedere, guarda quello di questo qui originale, che c'ha la tastiera tutta illuminata. Ho capito, quello che c'era la fusa, il microfono più di tastiera. Esatto, è molto bella quella radio, adesso è bella. E vabbè, che se si può mettere, si può far funzionare con quello, eventualmente secondo te può prendere anche io lo stesso uguale. C'è problema. Se devi prenderlo, se devi usarlo tu quello lì, non c'è problema. Puoi anche usarlo tu. E io lo prendo dopo. Vediamo, vai, non c'è problema. Decidi tu quello che vuoi fare, poi me lo fai sapere. No, ma quello intanto ne altri, non ne avevo solo, no, secondo tempo al limite, all'altro mese mi prendo il microfono, non c'è problema. Facciamo così allora, che problema c'è? Io non ce n'è, capito. Adesso se buschi questa cosa a lui, e io mi prendo quello là. Certo che sì. Ci abbiamo, siamo a posto, là. Ma fai buco a chi viene. Ehi, ho visto. Ehi, ehi. Sono un po' di tosse. Cosa vuoi c'è? No, non me la metto più. E comunque mi sto facendo un giro e comunque la prossima volta mi salgo il, non quello, mi porto l'Acer 5100, così almeno non te ne bocca luci. Certo, non manco gli occhi. E ci avevo gli occhiali. E tu anche piccolino, come fanno a vedere quel monitor, non uso più. Perché questi così piccolini vanno bene per scrivere, per usarli poco tempo, perché se dopo tu ci stai sopra ti crepa gli occhi. Sembra una cosa allucinante, fanno male con gli occhi. Ma non c'è un paio di occhiali qua perché gli altri ce li ho in macchina. Allucinante, dopo. E comunque già la prossima volta porto la CER 5100, più o meno quella è normale, e c'ha lo schermo più grande ed è migliore. Beh, il computer vuole di quelli grandi, noi vuoi sì, meno lì di uscino. Vabbè, quello lì giustamente, come hai detto tu, serve per fare un lavoro, il resto già va bene. C'era anche un altro, questo qui è il microfono da tavola con compressore Oxin. Sì, quello dovrebbe essere M908, quello col compressore, l'equalizzatore, 908, mentre invece quello lì è il 508, così è 908, M908. E c'è scritto V908 e costa 90 euro. Esatto. Esatto, più le spese di spedizione 100 euro. Sì. Quello è la V 908, invece quell'altro è la V 508. No, ma anche la V 508 va bene. Una volta che c'hai, che c'è la radio così come la mia, che c'è il processore, non c'è problema. È una canonata quello lì, va bene, più che ultimo. Lo conosco, l'avevo già, l'ho già avuto io quello, capito? Questo c'ha 6 euro di pacco cellare. Ah, 6 euro? Meglia, 6 euro di meno. E quello che c'ha a cuore dei litri, quello lì ce l'ha. Ce l'ha Roberto Quadrato, ce l'ha Sandro Tigre, quel microfono. Vanno molto bene quei microfoni, cazzo, se vanno bene. Quale fa prezzo è un ottimo microfono? E infatti adesso io il mese che vendo un giro si sto prendendo 30 A, questo c'è un 30 A e ne vuole 249 euro, compra subito. E lo sai povero? Poteva sì. Ma che vada a cagare, cazzo. Non ho capito niente, che la Broxel è la numero uno al mondo per costruzione di alimentatori e strumenti digitali. È la numero uno al mondo, non c'è niente da fare. Tutti i laboratori di elettronica, tecnici laboratorio, usano solo Broxel. E questo è un microset. La microset fa delle buone cose. Una grande casa costruttrice, ma secondo me la Proxel è migliore. E dove stai guardando tu adesso? Ma noi. E mi sta guardando il conteggio forse qui. Guarda, guarda, io sono qua. E guardato, dai, devo aggiungere. Infatti, io sono qua. Quando hai finito chiamami. No, stavo guardando solo la posta P, cosa c'era di cash. Mm. Ti ha guardato apposta, l'ha visto? No, va bene. Devo aggiungere Ebu. Aggiungiamo? No, lo veramente, così facciamo una e l'altra. Vabbè, ci fa un pacco normale. E io poi ci sarà già lui, perché secondo noi si fa da una spedizione unica per tutte e due. E infatti. E ci pagare due spedizioni, non bene. Vabbè. Altrimenti poi è troppo. Invece conviene fare così. E già, facciamo così. Adesso io domani mattina lo chiamo. Come esco al contatto e vediamo cosa dice. Vedi sul dettaglio HP1000 transmetter, no? Smetto a battere per quella torre antenna a principi. Ma vedi cosa ci sono, altre occasioni ci sono. Io sto guardando in generale degli accessori, cosa se c'è altra roba. Ho capito. Va bene. Cazzo, mentre mi taglia d'ora, boh. Non resisto più di quest'ora. A quest'ora mi viene un sonno. Ora d'inverno. Mamma mia. E d'inverno viene. Arriva a un certo orario. Calduccio e a letto. E infatti. Forse perché oramai sono qua in questa stanza, visto come è organizzata, quindi alla fine mi annoio anche. Ma è piaciuta a te come l'ho fatta? Sì, dopo come non potrei mettere l'altro tavolo, deve uscire una. Dovevi migliorare, eh? Deve essere provvisoria quell'altra parte, perché ancora non ha finito l'altra base di Giulio. Appena finita, quella rimane tutta. Praticamente la L con l'angolo, capito? E nell'angolo ci va il PC, con la tastiera, tutto. Adesso è un po' troppo ammassato, così troppe varie ci sono. Sì, infatti, ce l'hai una sull'altra, ma una volta metti il tavolo, lo metti messo bene, già cambia. Ci fa un altro soppacco come quelle grandi, le disse, come gli HF. Ci va il soppacchetto, no? E quindi vanno tutte messe dove devono essere messe. Adesso rimaniamo ancora dentro gli armadi, perché qui i sussurruisci, no? Ce n'è. Sto pulendo tutte perché adesso c'ho il posto e voglio proprio avere tutto quello che esiste al mondo. Adesso quel Zodiac, quello base, il B5024, questo bellarello è l'Anda ne lascia radio. Ne lascia un bel bici, dai. Beh, quella degli anni 80, quella quell'altro che c'è sopra, e anche il Ranger, tutto. Ma gli altri di ultima generazione sono, hai visto, il presidente Lincoln, il Tornado 4005, il presidente Jackson, il Sears, che quella è americana, la KB23, vabbè, quella è il numero uno, quella non si scherza. Ma infatti ho visto già lei un bel po', io ti rispetto, io se ne trovo altri in giro, come ne becco, come ho fatto l'altra volta, anche quello te l'ho detto, sicuramente era lo Zodiac. E ho fatto male a non prenderlo, si deve dire al fronte della vapore. Oh, questa funziona, c'è anche l'orologio, funziona 10:13, ed è giusto 10:13. 10:13, c'è l'orologio, funziona. Ma bello, quello è un base favoloso. Adesso gli smetterei c'è altre scale. Farà modulometro, rosmetro, wattmetro e smitter. Una bella colonnina, va avanti, c'è. Molto bello, con il ferro, quello è tutto di ferro. Gli altri sono baracchini di ultima generazione, tipo il President, il Tornado 4005, il President Lincoln, poi c'è il President Jackson, che va bene, ne ho altri ancora in tutti armati. Ehi, te lo sto aspettando l'altra scrivania, ma se no mi casino. Perché la parte amatoriale ce l'hai vista come quella in ordine, con tutti gli HF. Quella dei baracchini deve essere separata. Per essere separata ha bisogno della sua parte. Hai il microfono a tavolo che ci sono. Lo ricordo aspettarne più tre. Non è che me ne ricordavo, ero da un po' senza usarne, infatti dopo mi te l'ho detto. Ho ripreso perché mi ha dato l'autorizzazione lui, perché intanto così in macchina non avrebbe fatto usarne, perché adesso vabbè non c'è freddo, ma lo usi centralmente quando esci. Beh, certo che sì. No, ho detto gli avvisi, tranne più tre quelli tutti e due uguali. Sì, già li ho visti, sì. E adesso piano piano già mi organizzo, insomma, a pigliare qualche cosetta di più serio. Sì, vabbè, ma per l'uso che ne fai tu già va bene così come hai detto a me. Non fare errori madornali di prendere stronzate, spendere una volta solo i soldi, e poi già va bene. Ma infatti te l'ho detto, però dopo ci ho pensato, ho detto che mi ruba di qua il baracchino ve la giuglia, l'ha mai dato di sbigliare, di prendere un altro baracchino, ma non ce l'ho già uno, per prenderlo più che altro per casa. Ma questo che ho, questo è l'MS200, ho visto che funziona abbastanza bene. E comunque in modulazione ci ho fatto anche 10, come potenza. Buonasera. Dove Sandro? Non ho toccato il microfono. Un buen día. siamo cattivi. Un dia ci avevi fatti troppo alti. Buonasera, ben sentitos, noi siamo sempre qua. Io oramai ho il bostic nei canali. Sono tanto canale 10 e basta. E basta, solo canale 10. Ce l'hai tutti, fai una ricca. stesso colore del Toccai 5024, non come colore quel cilettino martellato, cassa in ferro, tutto cromato, colonnina rotonda davanti, c'è un rosmetro fenomenale, orologio meccanico, c'è un modulometro, c'è tutto, non ha le mandorle laterali perché, però è il 40 canali, non il 23 canali, è il 40 canali. C'è una lampadina bruciata che adesso appena 5 minuti della cambio ed è perfettamente funzionante, ha una recensione di una favola e va bene, però è un 40 canali base a 220 220 220, come lo vedi, lo vedi, e mentre quello lì invece tensione a 2 è quello, sì, in radica di noce, va bene, va bene. Ma io già ne ho di baracchini vecchi, no, non ci sono problemi, vecchi per modo di dire, anziani di età, ma sono nuovi esteticamente. Adesso se riesco a trovarne qualche altro, vedo un pochino di completare una serie che mi manca. Ok, ma vai per Sandro Tigre. Ciao Sandro, già ti copio bene. Tutto bene, ti stavo dicendo, ma allora non me la metto più. Lascio stare così. capitalisti di qualcuno che sta dando quelle radio lì, eccetera, fammelo sapere. Qualche base mi interessa. Qualche stazione base mi interessa. Ok. Avanti, Mauro. Sì, io mi sto guardando un po' di roba. Sì, guarda, guarda. Siamo in 9. Sono dei pizzi d'antiquariato e quindi niente, sono belli così, diciamo, almeno a me piace sempre, diciamo, la roba, diciamo, chiamiamola vecchia e così, anche per estetica. Adesso che non lo accendo sono anni, avrà anche lucido dentro, okay. Adesso qualche giorno lo provo a vedere. L'unica cosa è che non sono mai riuscito, diciamo, su quell'apparato lì, abbinarmi un microfono amplificato, mi storce, che è una cosa tremenda. L'unico è il suo originale. Guarda, tu a quella radio lì non c'è bisogno di mettere tanne più tre, di mettere i microfoni costosi. Con 45 euro le compro un MB più 4, non più 5. Un MB più 4. Lo metti neanche a metà di tonalità microfonica. Mi micchi tutto al massimo e poi mi dai la risposta. Guarda, ce l'avevo io con la radio, non quella serie lì. Io avevo l'altro, quello senza le bande laterali. Ti sto dicendo che è una canonata, ma molto, molto bene. Questi, ti ripeto, sono un'altra cosa, perché vabbè, già il president è dell'ultima generazione, quello c'ho io, ne ho due di president. Gli altri sono sempre degli anni 80, l'unico degli anni 70 è la KV23. Però ti sto dicendo, tutti quegli abbinamenti lì, in quelle radio, ricordati, MB più 4, non più 5, su quella radio. Gli altri radio di quelle a relè, quindi a commutazione, a relè, meccanica, tu le puoi attaccare qualsiasi tipo di microfono. Io ho per esempio il Savelta, che si abbina a tutte queste radio, a tutte. A tutte le radio che ho io, radio. Baracchini, non radio, a tutti i baracchini vecchi che c'ho io, il Savelta si abbina con tutti, mentre il tranne più 3 va bene sia sulle KB23 che sull'Inuit e sul Midland, sempre base, non va bene sul Zodiac. Sul Zodiac non mi piace modulazione, rimane troppo con tonalità acute e non ha tonalità basse. Capito? Perché stai usando una capsula ceramica e quindi la tonalità su quella commutazione, che non è a relè, è troppo alta, mentre sulle commutazioni a relè va tranquillo, che non c'è da sbagliare. Ho capito. E vabbè, ogni cosa la sua, dai. Va bene, so che chi aveva degli apparati vecchi, diciamo, era povero Giuseppe Aquila. So che lui aveva, tu già lo sai che lui era sempre appassionato, poi si metteva lì, li aggiustava, li faceva e tutto quanto. Quindi lui, lo so, ma ce ne sono, chi hanno ancora apparati, diciamo, vecchi. E va bene, belli per tenere, belli per ricordo e così via. Addirittura quello lì l'avevo preso a seconda mano, non voglio esagerare, ma saranno circa 10 anni fa, nel periodo, famosi periodi che ci sentivamo, che facevo quel lavoro là la notte. L'avevo preso stesso da Porto Torres, e se non sbaglio l'avevo preso da coso, da che adesso non è più in Sardegna qua, e Sergio, non so se ti ricorda Sergio Sanna, che adesso è a Genova. Sergio? Ma Sergio è quello che lavorava alla Sardegna, che abitava vicino a Borgo al Golfo? Allora, se non sbaglio mi sembra che abitava a Borgora, mi sembra, ma già l'ho sentato, lo conosce, sono parecchi anni. Addirittura un giorno l'ho intravisto, l'ho incrociato lì su Facebook. E lui è a Genova, adesso lui è a Genova. Se fosse Sergio Digani, no, non Sanna. Che parlava anche la figlia, Cristina. Questo non te lo so dire. So che era separato. Gian Paolo magari te lo sa spiegare meglio, ma lo conosci al 100%, adesso magari sono parecchi anni. Borgona, di fronte al Nautico abitava, di fronte al Nautico, ma non si chiama Sergio Sanna, è Sergio Digani, no, quello è Gilberto, ma lo sto dicendo, era gioventù, quello è Gilberto Digani. Era il capo officina della Sardin, parlava anche la figlia, sì, andavamo in palestra assieme, ho capito, no, Sergio Sanna, dai, a Borgona, non abitava a Borgona Sergio abitava in via Alfieri, abitava vicino a casa di mamma. Non lo so, adesso sono parecchi anni adesso. Non mi ricordo l'accesso che avventura, gli armeni via, la notte, i tiri, sono della macchina, per il casino, apro cancello, entra la fuga, pazzo, guarda. Noi quando ci sentivamo, mi trovo vicino a casa di mamma via Fili. La strada che sale poi a via Barai. A Borgona abitava quando era a casa della mamma, poi si è sposato e è venuto in via Fili, poi si è separato, ma io essendo vicino ci sentivamo sempre e andavo spesso a casa sua. Eravamo andati anche a trovare a Cerca 23, che era Mutli, aveva fatto prendere un HF e poi un Ribardia, perché c'era anche un po' complicato, io già in quegli anni non operavo questo tipo di radio. E allora ci aveva invitato uno di sì, non Galaxy ancora non era uscito, Saturn, ecco. Si aveva preso un base, non mi ricordo che cos'era, non mi ricordo che radio era, grande, enorme. Ma mi ha chiamato a Vivilla, non so quanti sciugli aveva pagato, ha detto cazzo si blocca, una cosa allucinante, perché sempre di baracchini si tratta, che sono grandi, sempre baracchini. E allora dicevamo non vendo, mi riprendo quello che ci aveva, se l'aveva in dubbio, se l'aveva durato a pigliare anche lei, effettuato, guarda il casino che faceva, l'allucinante. Alle prossimine 20. anch'io, adesso svelo tutto e mi preparo per la mano, ma domani sono anche il turno, devo alzare 5:30, che alle 6 devo timbrare. Ciao amore, fammi sapere, aggiornami di quella cosa lì e niente, ci sentiamo comunque, ok? Ci sentiamo anche domani. E ci sentiamo domani, là. Io domani mattina faccio quell'operazione e dopo ci sentiamo, va? Ok. A domani. E anche io lo stesso chiudo. E Ananda che alle 4 mi devo alzare. È su alle 4, non alle 5, quindi. No, oggi domani termino questo turno che ho di sostituzione. E per cui sono libero perché venerdì poi sono incasinato, eccetera, eccetera. Va bene, dai, ci aggiorniamo domani, amore. Saluto a casa, Fabio, ciao. E ciao, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte.